Attenzione 10K. Antonio. 6H, chi è? Antonello, ciao. Oh, ciao Antonello, buonasera. Aspetta che vado a prendere un attimo il bambino che c'è nel seggiolino legato. Come è così basso, Antonello? Sto usando un baracchino, uno Zodiac 5034, 5 watt. Ho visto, c'è un po' bassino. Aspetta che prendo il bambino. Eia. Ehi Antone. Ehi, qua sono. Sono pazzo di segnale, così. E beh, con un baracchino. Questo qua è logico. Non è come usare il cable tutto. No, di segnale. Sì, c'è un po' più basso, però non coincide. Di modulazione che sia un pochettino più basso. Ah, il microfono normale è questo, Sì, il microfono normale già si sente. Ma il segnale sia abbastanza buono. Io ho tolto il copri capsula, io ho tolto da questo microfono. C'era il copri capsula metallico, cazzo. Io l'ho tolto, almeno la capsula è più libera e più sensibile, che altro. Ehi, ecco qua. Ora. Cavolo. Adesso da un po' di giorni che non ne usavo, ero sempre fuori, ero. Catarina ha trovato un curo. Quando? Ieri? E c'era ritirata la roba d'Alghero, c'era. Avevo fatto 3 viaggi di camion. Certo. Ma c'era Alghero, il complesso c'era. Alghero, a Buffonendisi. Avevamo tutti i concerti, avevamo all'Arena, a Maria Pia, cioè, a Fertilia. Cioè. E ne abbiamo fatto anche tanti. Bene, così a me l'ha incassato, cara. Non sei contento? Cappa, e vabbè, io ero anche fuori. L'altro giorno ero anche con i Bertas, ero alla Pidozzi, era me. Sotto casa di De Luca. Lì, da Ruggiscolo. No, non sono andato io. Facciamo di racca, non so se l'hai andato. C'è l'abitante 220, è un euro, c'era. Figurati, roba libera ha venduto quel giorno. Un bicchiere da 220 a un euro è regalata. Lo so già. Così la pappa fa un po' troppo caro. Lì, già si intendia la qualità che era. Era così, era. Ho visto le foto, tutto pieno la via, sembrava ci stavano facendo un minimo di, io penso 50.000 persone c'erano in quella via. Già ce n'erano già, secondo me che ci si è cagato, madonna. Aspetta che cambia il pannolino. E io cambia, glielo cambia, io non c'è problema. Pomponio, KK. Sì, sono qua. Antonio. Chi è che lo vuole? Stai facendo male, Antonio. Come stai? Un sciabuco. Cosa stai combinando? Stai uscendo male. Sto uscendo male? Male come? Aspetta, uno, due, tre, prova, adesso ce la sto uscendo bene. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova. Microfono amplificato palmare. Ehi, Alberto. Hai visto? Sei sempre sperimentando. No, non sto sperimentando. Stavo solo provando i microfoni che ho. Poco fa stavo provando il baracchino di coso, il Giuseppe che l'ha messo a posto. Ho sistemato il LED dello smitter, perché c'è lo smitter a LED. Adesso funzionano tutti. E scatta subito, è perfetto. È fuori frequenza. Che strano, a volte usciva le portanti, a volte no. Ma dove sei, Antonio? Non sei a casa tua? Sì che sono a casa. Ehi, eccomi qua, allora. Stavo cambiando il bambino. Vabbè. Intesa la musica a casa tua. Ma cosa intendeva? Tu dovevi vedere perché guarda se arriva qua bene. tu dovevi vedere il giorno prima la musica quanto si sentiva, e io dico che tu la intendevi a casa tua, ma quando verranno in Berta se non ma così intendia in occhi. Sì, si intendia. Oh, e me, se c'è un video te lo faccio sentire, che l'ho mandato a coso, a Marino, proprio la differenza. Oh, manco a paragone, quella del giorno prima era 10 volte almeno più forte. No, abbiamo messo l'impianto per quella piazza, ma già zuccava però. Sai cos'è? Che no, è meglio così. Meglio così. Già avevo già i coglioni girati. L'abbiamo messo sopra il palco, li abbiamo messi e basta. L'abbiamo messo sopra il palco, poca roba era. Però si soluzionava, si intendi a volte io su, magari perché là li hanno alzate, noi li abbiamo messi sul palco. Ogni amare di venghia, cazzo, ma ti butta di gemia, che pesa i 2 zentucchiere. Vai amata, di vai. Ah, perché tu dovevi sentire, guarda, io di Bertas non capivo neanche quello che stavamo dicendo, talmente era bassa. Quella del giorno prima che c'era Gaila, 883 Gaila. Cazzo, chissà, guarda, anche con la finestra chiusa si capiva benissimo cosa stavano cantando. Allucinante, mai sentita così alta. Ma se avevamo voluto. Avevo montato le gemie, avevo montato la lift. Ogni amare rivenga. Le abbiamo messe. Comunque era forte, giusto, sentiva. Magari i piani un pochettino più alti e di meno, perché là erano, le casse erano alte. Si turbunemo noi l'impianto, davvero, in chi cazzo ritrovavo barazzo. Avevamo 3 tette e 3 sub per parte, boh, finito lì il discorso. Però ti dico che giù si sentiva bene, a pari cosa si sentiva bene. È logico che se te lo mettono a 5-6 metri di altezza, è logico cazzo che il cazzo si intende voce sopra. Ma noi l'abbiamo messo in modo che si sentisse bene lì. Però ti dico che già era pompendemi. Immagino che giù si sentisse forte. Anche quella che ha suonato, cantato ieri, come te si chiamava, non me la metto. Se qua si sentiva benissimo. Quando hai in Berta, si ha detto, ma le condoglianze si sono dette, boh, ma così intendi la musica? Sì, la senti in dia, futti dinne. Si sentiva un bel forte giù. Perché non abbiamo alzato, le casse erano sul palco, ripeto. Ah, no, non ci metti neanche la copertura, bene bene. A pari gaci rimanono in chive. Perché se no, già il palco era piccolo, un palco di merda. E tutto, mi sarei dovuto mettere la lift, ci voleva un altro camion. Cioè, o sarei dovuto mettere quella, o se no mi sarei dovuto mettere, cioè, le gemie, cazzo, che pesano un trono, ci voleva un altro furgone, ci voleva. Perché già dovevano piazzare l'edor, tutto quanto, non c'era spazio di niente in quel palco di merda. Però guarda, difficile che trovi, te l'ho detto anche ieri, quella che c'era si intendeva giocando in voce. Però ripeto, ai Bertas, io qui non si capiva cosa stavano cantando, talmente era bassa. Già, naturalmente lì per forza è alta. O è la posizione forse delle casse che avete montato, ma qui non si capiva niente. Beh, si sentiva sì cantare, ma non si comprendeva le aziende. A rimani e quando verrà gli 883. Oh yeah! Oh, ma non è che hanno fatto nulla, me. Cioè, sì, oh yeah, se volevamo, certo ce ne mettevamo alla stessa altezza, tutti i dini, e portavo a posto di quel cazzo di culo, portavo i B2 e pensamente l'ubanato era rintronato. Ma non l'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto perché andava bene così. Perché già, cazzo, ci hanno rotto le palle anche al quartiere. Cazzo, con 2 B2, cazzo, quella signora, cioè quella signora là, che abitava di fronte, dice che li stava rimbombando a casa. Però lì abbiamo dovuto, hanno pagato, abbiamo dovuto portarli così, capito? Yeah. KK, Ma io non ho mai visto così tanta gente, ti giuro, quando c'era l'883. Manco ieri per il Bertas c'era tutta quella gente. Manco un terzo, assolutamente. Sta giù di tutto. Pensa, l'altro malato superava. Qui i parcheggi erano tutti, era chiuso dalle macchine. Non può dire né entrare né PC. Capito? Era un gioco, già. Era un bel di gente. Comunque abbiamo fatto una bella figura, dai. Forse giù ci sentiva. Cosa c'è, Gabriele? Gioca col triciclo. Anche giù abbiamo fatto una bella figura, cioè, anche noi abbiamo fatto una bella figura, cioè la roba era di qualità, c'è la roba di qualità. Sì, ma anche i fari di Foto 3, se volevo essere un critico, così erano, non si possono mai paragonare ai nostri, no? Cazzo, che solo cazzo, le spider erano pagate cazzo 4.000 euro l'uno. Cioè, e prova a vedere quello che abbiamo montato, cioè hai visto i video, quello che abbiamo montato da Ghera, è una cosa pazzesca. Lì, in chi vi dice una pavocchia, davvero, però? Un acoustic, cioè di impianto, che costava una follia e cose, in chi vi toccava a volte, ma abbiamo fatto anche cose, De Gregori a Cavras, lì gli abbiamo tolto la roba, come? Cioè, abbiamo messo quattro di quei subi grossi, i miei B2, a 25 metri, cazzo, ti dava la botta, ti dava. Ma lì si sentiva la voce, vero, però? Sono rimasto così, agito, tanto non ho allattato il suo volume, no, boh. Infatti ti stavo per mandare un messaggio, poi tanto impegnato non riesce neanche a vederli. No, vabbè, giù già si sentiva, ma stava scendere giù e ti associava la recce. Immagino, perché poi li fa tipo tunnel. Il problema è che non abbiamo messo neanche il front feed, cioè davanti, capito? Se no magari che cosa si era inteso, le Q7 sono, cioè davano tutto Q1. Perché la Q7 cioè, come, ha la più apertura cioè, nella tromba, capito? Se abbiamo i bociughisi, buru, allora sì che le avresti sentite forte. Siccome hanno la tromba che è un pochettino più chiusa, quindi cosa fa? Tu mettendole così, giù sentono bene forte. Se vanno un pochettino più in là, non si sente un granché, capito? Cioè, però lì in quella piazza sicuro che si sente forte perché i gradi erano giusti, capito? Magari in altezza non ci va, senti solo il subo, boom, boom, boom. Bozzi, tagito, zero. Beh, che te devo dire, sei dei taccagni, già lo so che sei dei taccagni. Potevi attaccare le linee, Luca, a me lo ti sentivano. Anto, io non capisco niente di quello che stai dicendo, ma te lo comprendi, Anto. Luca. Zero, sei fuori frequenza, Antone. Come fuori frequenza? No, non ti sento. Ecco il perché di quella di questa cosa qua. Capisci il perché? Perché da tu da sopra non arrivava il suono. Arrivava lì nella piazza. Proviamo a punire tutto quanto a vedere se arrivi. Grazie, niente, zocco. Boh, per conto mio, gli 883 e ieri chi era con il nome vi hanno toppato di brutto. Ma di brutto, gli 883 non li capiremo. Capito? Però, mi chiamava Sant'Antonio a palla. Ha detto, ma andiamo la musica, si intende una mazza. Pensavo infatti che gli avessero detto cosa perché il giorno prima era una palla forte. E avevo detto, sicuramente li hanno ripresi e oggi si sono tenuti bassi. È vero quello. L'hanno anche detto al microfono. È vero che gli hanno rotto i coglioni a lui. È vero. No, ma te l'ho appena spiegato, il sistema Lenry è così, cioè, secondo come lo punti, se noi non abbiamo appiccato Gashi, capito? Se l'abbiamo appiccato è vero che l'avessi inteso. Cioè, il sistema Lenry è un sistema che è particolare, cioè, sono chiusi, cioè, cilindrico il suono, capito? Se tu li metti così bassi, è logico che nel palazzo non si intende. Cioè, no, non dà fastidio. Capisce? Se noi l'abbiamo appiccato questo impianto, è come ti chiedi l'avessi inteso tu da casa d'Oia. Se l'ha rintronato lo barazzo, con i suoi sub, con i B2, cosa vogliamo? Posati. È come se l'avessi inteso tu lo sono, nel barazzo. Antonio, sistemato ti sei? Sì, ero fuori... con Cranif, cioè con fine cose ero fuori, adesso sono dentro. Ma non toccano, stai sempre toccando. Perché stavo ascoltando i russi ieri sera, capito, arrivavano 9:20, gli facevo ora ora Coca-Cola, si è messo a ridere, si è messo, oh Coca-Cola, ora ora, mi faceva italiano, uno in culo e in mano, io ho detto. Ah, sui Dania. Sono stato di 5 metri semi. È iniziato a preparare verso le 4 ieri. Era massi. Poi alle 5 metri semi, 9:20, 9:25. Allora, intorno a quell'ora arrivano bene a me. Mi sento uno e l'altro. Non credo, Piao. Che arrivine. Comunque noi non abbiamo un impianto del cavolo, E qua c'è un pezzo di naghi, se proviamo non abbiamo un DMB, c'è tedesco, Che cosa? Se l'avrebbe stato lo Martin, chi vi pensamente di balcone si erano trimmate? Cioè quello che usano questa azienda, minchia. Oh, stavo dicendo Luca, se avessi messo la Falcone incalzato con lineare, sarebbe entrato nelle casse che quando cantava gli 883. Dove gli 883 cazzo quanto zuccava, ma si intendeva una cosa allucinante, con il bacone sarrato, bull. Cazzo ha detto, guarda che avevo già mani i vigili. Sì, quando qua la volta che Andrea, ti parlo di un bel po' di anni fa però, dopo 2 anni che avevo aperto, ha preso, ha fatto venire in complesso qui, ha chiuso la via e ha distribuito pane e salsiccione gratis a tutti. L'unica cosa che dovevi pagare era solo la roba da bere, nel bar da lui. E c'era un compenso sassarese, c'era. E immediatamente mi ha sceso il capocondomino, cazzo, a Pia da Bozzi, a Andrea, ha preso a voci. Entro mezzanotte qui deve finire tutto, ha detto. C'è la signora dell'angolo che non vuole sentire di questa musica, basta. E io ho detto, vai a fanculo, vai. Allora, fino a mezzanotte si è appagato la CIA e tutto, li non la faccio in culo. Sì, già lo so questo, ma poveraccio, quello ha speso tutto lui in panini e salsiccia, cazzo, gratis, distribuendo. Figurati, e poi arriva questo scemo, cazzo, e si stava lamentando. Se non ti piace la musica, cazzo, prendi i piedi, te ne vai a casa tua e te ne vai in campagna, ora sai, a rompere il palo. Gli altri del palazzo non si è lamentato nessuno, solo in due. Il capocondomino e questa signora che è dell'angolo. Capito? Infatti non ha più fatto di feste qua. Se aveva fatto la festa, oh guai. Ogni tanto si diverte cose, quello delle. Ma non è questo granché, capito? Quello della Kuwait al bar. C'è il mixer, c'è le fa venire il compresso, ma non c'ha tutti questi watt, capito? C'è le casse quelle sono là 250 watt, cosa del genere. Lo sento qua solo qua io e basta. E parto di fronte. Vero, Luca ci sei. Forse l'ho chiamato. Ho avuto dire che se piazzo di me che ci vado in casa, che si zocca, è un bel. Ah, io ci sono giocato lì, tu. Magari ci va giù io. Allora. Sono giocattoli che rompono le balle. Quelli vanno bene al circolo, dentro al circolo di quelli in quei muri di Sassari e Vecchia, a voglia che tocca. Mira, oltretutto la qualità, cioè non deve solo toccare la cassa, deve essere di qualità. Inutile che toccano e non sono di qualità, poi c'è una merda. No, non è così no, che funziona. Lo so, deve toccare e essere di qualità. Io lo so. vabbè, si comincia a comprarti roba da 4.000 euro, 5.000 euro, già, quello già, il service, già, quello già va, è tutta un'altra storia. Sì, no, già. Già ne abbiamo noi, di roba seria. Noi abbiamo due impianti, abbiamo il DMB e il Martin. Il Martin ti tira certe cazzotte, è una cosa micidiale, è conosciuto per quello. Lo usano in azienda, lo usano, ma chi su zocca vero? Vabbè, quello sì. Ma penso che il service come si deve, più che il pulo ce l'hanno. Gli altri ricordi c'hanno, quando viaggiavano i pucci avevano tre camion di quelli lunghi pieni di roba, tutte loro ci avevano comprato, il servizio completo, chiamavano solamente le persone che gli servivano per poter utilizzare le apparecchiature e basta, poi tutto il resto ce l'avevano tutte loro. Noi molte volte ci limitiamo, piazziamo roba guda anche perché ci conviene di più, cazzo. Cioè con l'impianto siamo un po' giù, ma quando dobbiamo piazzare sul serio, il DMB con i sub suoi, chi su G che ti dà la botta davvero, una bestia sono. Ma chi su ti rende una roba razzo, cazzo, hanno chiamato i carabinieri dal Ghero l'altro giorno. Solo che gli hanno detto che non potevano fare niente, gli hanno detto. Perché cazzo, facendo le prove li stava rintronando il palazzo, stava rintronando al quartiere. Si è affacciata, ma insomma, mi trema la camera da letto qui. E purtroppo quelli gli devi mettere tutta quella potenza perché hanno pagato. Quindi gli devi mettere. E avevamo proprio... A cosa ci scateniamo me? Quando andiamo a Fertilia? Lì mettiamo impianto o impianto forte, cioè quando andiamo all'arena giù, a Maria Pia, lì ci scateniamo forte. All'arena, meno male ci sono i muri tipo Colosseo, no? Se ci metti l'impianto da 6.000 watt, tutti i muri ne scendono, cazzo. No, lì non è, no, non c'è niente lì, capito, non c'è niente lì. E quindi lì possono essere anche 80.000, 60.000 watt, quindi non c'è niente lì che è di ostacolo, lì zocca un bel. Se piazza l'impianto dove c'è fatto bene, come facevano i romani, che in pratica, visto la Rana di Verona, quando zocca si sente proprio il suono bene, capito? Ti arriva la radio, dici, perfetto ti arriva il suono, perché come si dice, l'hanno costruito per avere un'acustica micidiale, hai capito? Sì. Allora ho fatto anche la serata lì a Coso, a... come si chiama? L'anno scorso, alla Torres. Altri si zuccava in chi vivo impianto davvero. Il placebo abbiamo fatto. Adesso io quest'inverno dovrei fare il corso come fonico da sala, capito? È una cosa molto, molto importante fare il fonico da sala, non è un gioco. Ma io ho avuto zuccare davvero, mi attore. Dove ci sei? Propagazione c'è. E stavo dicendo che devo fare il corso per diventare fonico da sala. Non è una cosa diventare seria. Non lo stavo pilotando io comunque l'impianto, stavo pilotando lui. E io gli ho detto, fammi fare il corso quest'anno d'inverno quando non c'è niente. Vengo e facciamo delle lezioni. Cazzo, avevamo comprato un mixer allucinante, avevamo comprato 50 migliaia di roba. Cazzo, dopo te lo mando, una cosa allucinante. Le M7 della Yamaha. Cazzo, una cosa... Dei bagagli più asciughe, mixer, no, dei bagagli più personale, asciughe. Ecco, il personale già sta bene. Ma lo conosci a Gino? A Gino Pane? No, Valentino Pani. Guida rugame, oggi la vigile del fuoco. Ma hai portato a casa? No, non è così, no, già c'è salito via. Ma abitano in chimi, vedi una roba, dove dovrà poter verdura, in chimi, in chi sono barato. Beh, infatti, pani c'ha ginocchio. Gino, che pare che chiaro, in te, magari vuoi vedi bianchi. Sì, pani già li conosco. Però mi sembrava quello di qua. Che guida il camion? Beh, ma qua poco ci sta. Lo gioco. Lavora con noi. Ma non ha, mi sa che non vive neanche a Sassari. Io vivo a Sassari. Vedete che andiamo a controllare. Oggi mi fa razzismo. Ma come l'ho messo, se? Oh, buono, stavo chiamando, non mi ha risposto. Comunque, sempre perfetta, lui. Ha già controllato a 1-1. Di russo. Adesso ho visto che è passata la dogana quei cazzo di cose, di componenti. Sono già passata la dogana, chissà che arriva in Italia guida. Va bene. Aspetta che va a vedere il forno. Vai. Sono rientrato. Ecco, Antonio. Via, mi sono spostato un attimino, mi ha chiamato Simona. Sono entrato adesso, tutto a posto. Chiappa, chi sei correndo come un pazzo? Vieni qua, Gabriele! Mamma mia! E lascialo qua, per vedere che fa bene. E se no cosa fa? Si annoia, seduto. Lascialo camminare, così si stanca, stavolta che vai alle 8, si addormenta, fino a domani. E che devo stare attento, Antonio, io sono combina anche tu, ma... I bambini sono vivaci, mi danno da me. Io, quando è nata Giovanna, sono stato 2 anni e mezzo a pensare lì. Capito? Figurati. 2 anni e mezzo castigato in casa, sono tutto di male. Perché dovevo stare a tagliare la pappa, cambiare i pannolini, eccetera, eccetera. Perché mamma non faceva nulla, faceva fare a me. Quindi so cosa vuol dire. Vabbè, dopo i pannolini dei bambini e anche i pannolini dei grandi ho dovuto fare per mamma, anzi prima per mamma e poi per mamma, perché scendevo sempre a casa giù, capito? Non c'erano dei problemi, e in più dovevo sopportarmi anche Gian Piero, quindi figura di due, già l'ho fatto il bandante per un sacco d'anni. Abbassami le voci, stai buono. Madonna, già lo so, Giantone. Cosa vuoi fare? Vabbè, quando è più grande, che c'ha 10 anni, sei tranquillo, perché sei più tranquillo anche tu. E cominci a uscire con gli amichetti e capito, ti lascia in pace. È importante che non fosse a Rumacco. Ah. Non tocca nulla. L'importante è che non fosse a Rumacco, non fosse a Ripiritoso, sennò guai. Ehi, non penso, basta correggerlo da quando è piccolo, piano piano. Poi vedrai, già si comporta bene. Parla, dica che cosa. Mamma mia. due, è sempre così. E ha avuto nipoti io, e ho visto crescere, figurati. Da piccolini, poi piano piano, sono diventati grandi, adesso escono con gli amici, con l'amica, e quindi sventiano almeno, capito? Io sono in casa che fare, esci di cabusci. Tu mi devi portare gli amichetti qua, no gli amici che non li voglio. Sì. Le puppe. Ma bicchette grandi però, non piccole. Le gambe mano, vedrà lui. Mi porterà tutte le puppe. Allora, le 18 anni su te le fai portare per sicurezza, perché se vai a 17 anni sei fregato. No, questa non te la perdono, vai via. Sciola da lì, non toccarlo più, staminava qua dello portatile, non sto raccomandando più portatile. Non toccarlo più da lì. Oh. No. Le manine. No. Con la statuta tu puoi capire in terra. Allora. Piangi, vai. Piangi adesso. Ma dimmi, tu mi hai lampato lo portate in terra. A comprare un altro ancora. No, Sì, vabbè. Che ti devi dare dalla parte dove non c'è la Bibbia, almeno sei più tranquilla che tu sei, se si arriva a se riprende per giocare, si riprende di sbattere a terra. Non devi cudire nuda Edo a terra, niente, non devi tirare, e adesso piangi, l'ho sgridatolo. Ho visto roba rotta la Giovanna, la mia sorella, quando era con il poste, pigliava la roba quando si cazzava, la buttava a terra. Ma non sai quante vasi ti ha rotto, vedi? Sopra mobili, non ci potevi mettere nulla in casa. Ma io non so così, io vado là. Cosa hai combinato? Madonna, gara. Tutto niente, mi rimane. Cosa aspetta un attimo, Antone. Io non so così, da me ne prende, da me ne prende. Ma io voglio educazione qua. Ui, ui. Luca, marito. Antone, se non li fai rispettare le regole, diventa un problema. Già lo so. Lo so, bisogna gestirli piano piano. Cappa, allora se ne è andato offeso, non me ne frega niente, ma non devi farci annullare, no. Uiuia. A ottobre faccio la revisione della moto e la cosa, l'assicurazione, che cazzo ti impare? Ma poi la ciappa anche d'uno, le rabbiano, un gatto, fammi abbassare. Molto paghi l'assicurazione di moto, 500 paghi. Ma fuori il gabus, 230 euro l'anno. Ah, allora non è molto. Ma quest'anno mi abbasserà pure. Poi con quella categoria del motorino posso prendermi anche una macchina. Posso comprarmi la macchina, compreso? Già lo so. La macchina si paga un bel, si paga, mamma mia, adesso ci vuole un patrimonio, ci vuole per la macchina. Poi adesso con queste macchine che ci vogliono rifilare quelle elettriche, hai visto che nei traghetti non le fanno manco entrare le macchine elettriche, quindi chi se la compra se la zacca ad Arezzo, se la zacca, perché non le vogliono nei traghetti macchine elettriche, perché prendono fuoco. Purtroppo è così, un veicolo, comunque sì, no, ma non si paga molto per la macchina. Io per la macchina con 1.200 o 1.300 a pari cosa dovrei pagare 200 euro ogni 6 mesi, non è tanto. Non è tanto, no, 1.300 già, vabbè, un Apollo, un filiale di quelle 4 porte, anzi 5 porte, già si trova a poco prezzo, 1-1 anche, ma vedo che non te la compri nuova, te la pagherate piano piano. Una macchina così ci vuole, una... Ma se porti in piedi, ma dimmi tu, ho dovuto chiudere la cosa. Un appunto va bene, che sono più facili meccanica, capito? Sì, va bene, anche l'appunto, che è buono. Poi già lì, vabbè, dove sei tu già si può parcheggiare come si deve qua. Non c'è mai parcheggio, cazzo, nelle mattinate di sera devi fare il giro dell'occa qua per cercare il parcheggio, da quando c'è il bar, è un casino questa via qui, capito? Tutto pieno, solo i numeri cammino, non c'è quasi nessuno. Lo so. È casino, va. Vabbè, a me non è che piace molto usare la macchina. La verità ti dico, preferisco usarmi la moto. Ah, beh, l'estate la moto già va bene, ma l'inverno, lascia perdere, l'inverno ti prendi i malanni, ti prendi. Ti conviene d'estate la moto, in inverno la usi la macchina. Te la assicuri la moto solo d'estate e basta, 6 mesi all'anno e sei a posto. È 3 giorni che non mi ha giubilato con la moto. Ehi, se fa bella giornata io mi piglio la moto. Mi ne ha fatto assai piglia la macchina. E infatti succede quello. D'inverno usi la macchina da settembre in poi. E poi d'estate, quando comincia il caldo, verso aprile maggio, tiri fuori la moto e esci in moto. Almeno sei più tranquillo. E fai anche più veloce arrivare al posto di lavoro. Sì, se fa bella giornata d'inverno io mi copro un po', mi piglio la moto. La macchina, la guverma, la macchina me la fatti nuda. Proprio no, zero mi. Quanto ne è zero, non me frega niente. Preferisco più la moto io, sono più motaro. Sì, la macchina sì, però con chita vai subito, passi la vira, va a girare di mille palle. Tu, io non ho mai pigliato macchina. E se prendo quella macchinetta, quella senza patente, ma fa cuffia. Tanto per andare a fare la spesa, tappato per non pigliarmi l'acqua. Poi si vedrà, capito, perché camminare a piedi viene un bel male. Stamattina quando mi sono fatto la salita, mi sono di 11, cazzo, facevo male le gambe, capito. Col caldo che c'era poi veniva male anche a respirare, non so, l'altro. Il fiatone mi stava venendo, cazzo. Infatti mi sono fermato 5 minuti, poi mi sono ripartito a piedi. Immaginati se mi faccio la salita dello spin con 2 buste, arrivo morto a casa. Ma come ti sei busato, Gabriele? Lo so. Non so che cos'è. Io me la prendo perché ho la patente e quindi non ho problemi. Capito? L'altro giorno era le bombole, l'ho portata io la macchina, la guido io. Hai fatto bene, almeno sei più tranquillo. Vai tu, prendi la macchina, guidi tu, prendi la bombola, la consegni e poi riscendi. E lui se prende l'altra macchina, vai a fare se ce la fai un'altra consegna, fa l'altra consegna, non è quello il problema. L'altro giorno c'ero io per un paio di ore, c'era il ragazzo, io mi guidavo e portavo la bombola e bomba. L'ho fatto così perché mi piace a me anche, capito? Io non vado solo per i soldi, molte volte, vado così anche per distrarmi, a farmi un paio di ore, capito? Ma non si allampato in casa. Ma molte volte però vado a lavorare proprio. Ha detto, ma già ci sono io, gli ho detto, lo porto io. Ma a me anche essere un pochettino appassionato, cioè un pochettino, mi piace, anche se devo fare un paio di ore così per stare un po' in giro, lo faccio ben volentieri, no? Quando lo posso fare, quando non lo posso fare, non lo posso fare. Ah beh, quello sì. E vabbè, sei giovane, quando poi arrivi all'età che ho io, 60 anni, comincia a sentirsi, mi spesso, bombole. Capito? Cambia tutto. Un sacco di gente ha avuto problemi a 60 anni, 60, 65, e comincia già a sentirsi l'età e comincia. Mario. Eppure il lavoro che facciamo noi è un lavoro da fuori di testa, ma mancante proprio, da gente copiata. Grazie, c'è il mio collega che ha 52 anni, ma è copiato. E non è lavoro da fare così, E avevo gustato le bombole, quello che c'era al ristorante lì in via Protopopes, prima le portava lui le bombole, dopodiché ha preferito prendere una persona, stipendiarla e lui se ne stava ritrovato, capito, nella pizzeria e faceva il padrone. A voi per niente, perché gli ho dato una sgridata. No, io parlo del mio lavoro che faccio, io non porto solo le bombole, io faccio il service, faccio. E pare quello lì, è il più pesante, che c'è, più pesante delle bombole pure. A chi non trovo? Mi danno tutti. Devi stare in giro per la Sardegna, devi lavorare tanto, tanto, tanto, devi lavorare. E quello è il lavoro. Chi se travaglia a vero? Se è così. Devi essere via alle 5, piazza del parco, poi verso le 9 e mezzo, le 10 deve essere già pronto, poi devono approvare gli strumenti, eccetera, eccetera, la regolazione di tutto e fare le prove. E dopodiché finita alle 3 mattina, dopo le 3 cominci a smontare tutto, si fanno le 5 le 6 del mattino, arrivi minimo alle 8 tu, secondo dove sei. Si va a ferro, di neci da ganna, non è così, no. Dipende cosa devi fare, dipende. E a volte facciamo anche più presto, perché siamo anche molto esperti, molto veloci a smontare tutto, quindi sappiamo dove mettere le mani. Oramai è una squadra compatta, capito? Diventando una squadra compatta ci mettiamo molto poco a smontare. Se vi organizzate, certo che fate in fretta, non è che ci voglia questo granché. Vi dovete organizzare, uno fa una cosa, l'altro fa l'altra e installate il pacco veloce, veloce, veloce proprio, capito? Vi organizzate così. Se siete disorganizzati diventa un casino, diventa, capito? Lo so. Ma vabbè, noi già sappiamo cosa dobbiamo fare. Non è così, no. Lo sappiamo dove mettere le mani. Ah, meglio così. A furia di imparare, a furia di botte. Funziona anche così, ma non te lo dicono. Perché tu pensi che uno ti vuole fare una cattiveria. Te lo dicono perché devi migliorare. Capito? Io già ho capito. Aspetta 5 minuti, vado un attimo in bagno e rientro subito. Ok, va. Luca, sei tu? Che è? Chiama sul 10, avanti, ciao Aldo, mi senti Aldo? No, poi ti sento. Ma sei a casa? E io sono a casa oggi. Aspetta che per il marmocchietto che comprende qualche cosa. Lo porto qua, lo porto. Vieni qua! Sì, fa. Adesso cercavo di resettare il computer. Perché è lento. È lento. Sempre bene ti arrivo lì al monte. Una cannonata. Pure due a me, se... Sei guarda a fondo scala, cielo. Pure due a tu. E diciamo che diventi di là sono vicini. Poi un'altra l'hai messa sul tetto, la meraviglia. Sì, no, questa non venne. Questa mi ha fatta bene pure, cavolo. Un bel lavoro mi ha fatto. Mazzola, non venne per nessuno. Beh, anche la mia è piazzata bene, buttava di fatta nuova, la mia è perfetta. Stiamo parlando di un'antenna che ha 15 anni, mi. Cazzo. Ma sono soddisfatto, ha pigliato il mareato di vento, guarda lì. Ha pigliato Eva, ha pigliato il gozzo. Va bene. E non da bene. Se no arretto. Ma poi un parecchio senza entrare anche tu, eh? No, ho sentato l'altro giorno salutare a Gio Maria e a Tore sul 23. Capa, ma dico, eri da parecchio senza entrare in radio. Allora. Se mi faccio vedere quello di 10 decia, vedi? Vediamo. Riusciamo a vedere. Cazzo, ma ci sono riuscito a farlo andare. Ha sentito lo sistema operativo. Capo, allora, 9.30 spaccate, sì. Ma, perché questo qua arriva un po' di più, arriva anche. Tanto tu sei, dove c'è il più 30 sul 3? A fondo scala. Fondo scala, no, ma sì, cazzo, 9.30, capito? Sei abbastanza forte. Vabbè, siamo vicini, mi hanno. Sono vicino in linea d'aria, dai. Poi tu un'antenna buona, io idem. Va bene. Prima arrivai più basso. Non di molto, però arrivai molto più basso. E vabbè, tu sei più in basso di me, sei. Non tu cannuda! Tu sei molto più in basso di me, io sono un po' più in alto. Tutto lì il discorso, ma ti difendi bene, ti difendi. Ma che sei a bozzi? Clari, adesso facciamo. Dopo facciamo la doccia, ti faccio la doccia. Prima me la faccia papà, poi a Gabri. Non tocca la radio! Madonna, oh. E se la fa Gabri, esciamo. Andiamo a vedere le pupette. Perché qualcuno ha da giocare, un piccolino. Come a portarlo? Beh, adesso stessi no. Continuare. Come dire, ma forse c'era. Se non lo sbaglio Nicola che stava chiamando qua vicino a me. Nicola ci sei? C'era Nicola poco fa stava chiamando. Ecco qua, sto controllando il PC. Adesso questo qua lo faccio a potenzio. Metto un hard disk da 256, questo SSD però. Lo potenziamo. Capa, non tocca! Mamma mia, quanto mi fa di nervosimi! Torrado visi! Non lo so perché io c'ho lo squelch abbassato, capito? E quindi non lo so. Non tocca il tunnel! Mamma mia! Aspetta. Ok, allora sono tornato a regolare. Io sai che i bambini toccano. Casino. Capo, se no sta trinza Nicola, non lo sentiamo. C'è qualcuno che vuole entrare? Ciucca, sono entrato. Via, un po', come? E beh, Antonio. Allora, come andiamo? Sai che si funziona ancora che su Gosibu? Sta accaduto un bel. Lasciamo vedere. Allora, così. No, così è attaccato, allora un po' avanti. Quasi 9.30 sei qua, 9.25 passato. Oh, e com'è attaccato? E va. Non sono attivato da le 747, non più sincero. Non sono attivato da. 9.40 sei 9.40. Non fare a voci! 9.40 sì. La radio è bella, non è satura, no? Assolutamente no, assolutamente no. Cappa. Va bene. Ora. La linea d'aria sei più vicino ad Antonello. Sì, beh certo. Infatti arrivi più forte tu di Antonello. Antonello è più lontano, vabbè. Però tu arriva forte. Sono contro 1009, Santa Cruz. 140 già cambia. No, c'è un segnalone, mio, sono su più 30. Già va bene, eh? Già va bene. 2009, quello di 4.000 sto usando, va bene. In chi mi siamo? Ma ti arriva più forte di me, ti arriva. No, tu sei più forte, Andu. Tu sei in mezzo, capi? Tra il più e il 3. Sei quasi davanti al 3, dai. Lui è sul più. Però se siete abbastanza forti. Vabbè, siamo vicini, no? Siamo a cazzo tipo Portotorne, siamo... quella di Bossoli, lì punti così. Siamo vicini. Che va bene, dai. Ecco, però fra poco mi ricaldi di vozzo, un passaggio di vozzo. Sì, noi siamo d'assai, sei forte già così. La differenza non è che se fosse da pomponio si nota di più, sicuramente. E gli arriva bene quando attacca lui. Io sono liscio, liscio, liscio. E il linea mio è prestato a Antonio, l'ho prestato. Giù a Corso. A vicino a Sorso, là. A Delta 1. Almeno lo sento, ma se no è Delta un fosso. Non arrivava a me, cioè 7.5 neanche. Adesso con il lineare già pompa. Ma chi è Franco? Non c'è vicino a Franco, no Franco Delta 1, no. Delta, Antonio Delta 1. Sai dove c'ho uno di QRM io, nel Connex 4000. Va a vedere Luca. Oh, ancora non è in casa. Sì, un po' è salito tanto, ma sei già forte, capito? Volevo fare una prova per farla andare, che ho un pochettino di tempo fermo. Allora facciamo la prova. Oh, là. No, vai bene, Andrew, non lo sapevo neanche. Adesso lo scaldare un pochino. Ho fatto ando con 48 che hanno ancora di più. A riposo, Giando. Deve essere che fatto il bambino. Scappa, a riposo. Guarda lui, ora sono al massimo, com'è? Ora. E lì sì, sempre Andrew, non è che siamo troppo vicini. E magari non mi piazzi però. Troppo posto la radio, questo qua è il 48. Com'è tanto? Popò, come sta qua? Antonello? Dimmi, sei cupo di radio, eh? Vabbè, ho preso il cupo di segnale, com'è? Quasi 9.36. Vabbè, ma non stare a voce, Gabri. Black. Avanti. Buonasera, Rostos. Ciao. Adesso siamo ritornati alle origini. Ciao ciao, buonasera. Dai, buonasera, non so chi ci sia, sono Gianluca Pomponio e a te, dai, non so se ci sia altra gente, sono tutti cordialmente. Eccomi qua. E a c'è Luca, Luca del Monte, c'è. Montanino? Gappa gappa. Avanti Luca. Sì, ho già salutato Gianni, avanti già. Ehi, dai. E niente, mi stavo cantando, se no adesso smesso, se no poi la gola mi brucia, devo riposarmi un po'. Caba, ciao Gianni, ben inteso. Ciao, ciao, pompu. Oh, Lu, quella cosa là non si fa più perché se l'ha fatto già fare, la siamo arrivati in ritardo, se no la facevamo noi. Se l'ha fatta fare da quello che gli ha piazzato condizionato. Non c'è problema, tranquillo, se ti capita lo prendi, non buttare, già c'ho tutto io. E vabbè, è stata una cosa così, è un caso, dai, non è che io le sappia chissà tanto, ma se capita. Praticamente qualcuno che vuole passare uno strada a mai, fammelo sapere, io le so piazzare. E beh. Cappa cappa, andiamo a me così, dai. Hola. E già andiamo, come ti andiamo a casire, yuhu! Sono arrivato a me l'abitudine dei buppaghi. Vabbè, qualche volta vuole acceso, se no non si rovina, vuole acceso qualche volta. Quelli 10 minuti, dai, li diamo. E dopo non si avvita che lo usiasse. Ma no, no. Ma lo devo anche usare, lo devo, se non si guasta. Lo devo anche utilizzare. Luca se n'è andato. No, sono qua, sto controllando un tablet. Stai buttando. Controllando già. Ah, controllando. Oh, yeah. Io non uso il computer a te di computer. Uso il telefonino e boss. Tanto non c'ho stampante, non c'ho un cacchio. Prima c'avevo tutto. Stampavo, facevo foto, le stampavo, facevo mille roba. adesso non c'ho nemmeno la stampante, ora non me ne frega più nulla. Ah, le stampe di quelle porcaccione facevi. Ah! No, avevo la casa fotografica, mi facevo le stampa con le fotografie che scattavo io, capito? Le mettevo sul computer e pure stampavo. Kappa, già era bello così. Poi è sempre bello, eh. Io già c'ho la stampante qua. La fotocopiatrice, la stampante, qualche volta me la faccio io in casa la fotocopia. Io ci avevo tutto lo stesso. Io c'avevo anche lo scanner, figurati, tutto. Lo scanner si fa tutto, eh. E vabbè. Adesso non ne uso più, non ho voglia di stare a comprare a spendere altri soldi, siamo delle luci. Cappa, la prossima settimana compro le cartucce nuove, quelle della Pink, il prossimo mese. A me c'è anche il colore, ciò. E te show my friend, Sardinia from Italy. LFM, ti devi spostare però, frequenza pari in pratica. E lo senti bene? Attento, gorro noi, mi senti? Più chiaro di così. Ma in FM si c'è andato? No, io sono in AM, non sono in FM. E se vuoi dare i due voci? Oh, yeah. 9.05 mi è arrivato a me qua. A me mi arriva 9.10, 9.20. Ma si pensa a questo? Si è pensato le palline con il coso, col terociclo. L'altra volta gli ho detto ora Coca-Cola, ma si è messo a ridere, cazzo. Ma che sono indigeno, non dire. Ero russo ieri. L'ho chiamato, gli ho detto ora Coca-Cola, e lui Coca-Cola, ora, e si è messo a ridere. Il russo intende. E adesso è in alto. Ma io se vado dalla zona di mare me ne affitto di tutti. Che cosa? E dalla zona di mare io facevo certi di essi allucinanti. Prima dalla macchina, però con la Turbo 2001. Andavo verso Castelsardo.